nuovamente in diretta per rinnovare un buongiorno, qualche minuto di ritardo per il Jet Live di oggi, 10 maggio 2024, è una bellissima giornata, pare un ossimoro, ma è un buongiorno che inizia con un termine di stagione per alcune realtà concertistiche di cui abbiamo portato in maniera dettagliata, incontro per incontro, su musica e non solo, per Jet Live e per Paradiso Jazz, anzi per meglio dire per Jazz Club Il Torrione, la sede concertistica ferrarese, e anche l'imminente serata di lunedì di cui faremo un piccolo approfondimento legata al Paradiso Jazz di San Lazzaro. Intanto iniziare con un termine, Alfredo, pare un ossimoro, ma tant'è, buongiorno! Buongiorno Willy, beh insomma possiamo dire che in particolare la programmazione del Torrione ci ha illuminato l'inverno. Sì, assolutamente, è stato un 2023-2024, dovevo essere io quello aulico e poetico, ma mi hai rubato un po' la citazione di illuminare. Potrei aggiungere di subito sera, ti piace questa? È mia? Questa sì, l'hai scritta in gioventù. No, adesso in questo momento no, sì, invece, mi è venuta spontanea. Così. No, invece nel contesto delle mura ferraresi una particolarità di seguire da inizio alla fine il programma del Torrione è notare il cambio dei colori delle stagioni. Si parte da un fine estate-autunno, si arriva a un'inoltrata primavera, e in questo contesto storico trovare anche la vegetazione nel contesto ferrarese, la bellezza delle mura estensi e questa architettura particolare che ospita il Jazz Club di Ferrara, veramente la sensazione, oltre che quella di grande qualità musicale, nel piacere e anche in maniera concreta sentire il cambio delle stagioni, della luce, l'allungarsi, l'accorciarsi delle giornate. Sai, ho voluto pareggiare con te. Sai quando arrivi d'inverno a Ferrara che c'è quella nebbiolina, sì, quella peggiorina, quell'umidità, sì, che dici ma perché non sono rimasta a casa? Quando fai le scale di Torrione, ecco, cambia tutto. Ma è vero, al di là della lirica della poesia, è vero. Sai che a proposito di lirica, proprio per questo motivo, no, è l'irismo jazz di Chris Speed, che è stato nel concerto che ha dato la chiusura al sabato del Torrione. Partiamo con ascoltati per voi del concerto che ho trovato nella ultima serata, che è stata sabato scorso, con il lavoro Axiom di Desian Tersic alla batteria. Lui molto descrittivo, tecnico, originale, particolare, apparentemente dritto, mentre invece sempre pronto a entrare e uscire dai ritmi, e con lui Chris Speed, musicista che certamente ne riconosco l'immenso talento, ma che a volte ho trovato un pochettino ostico. Ecco, in questa situazione ho fatto un po' pace, per così dire, con questo musicista che ha dato alla formazione per il disco Silent Dancer, presentato nella serata appena trascorsa al Torrione, quella non rigidità, ma assolutamente, azzardo a dire, una scrittura in composizione più armonica, se vogliamo, rispetto, non so, alla sua presenza in Claudia Quintet. Ma tu puoi rispondermi, Chris Speed fa quello che vuole, ed è vero. Beh sì, non è ancora obbligato a fare quello che voglia noi. No, non c'è ancora questa legge, nonostante la Meloni, però... Aspettavo Bosan Z nella formazione, mentre invece c'era questo pianista, Joseph Dumoulin, di origine fiamminga, che anche lui è stato per completare la presenza sul palcoscenico estense in Ascoltati per voi, una piacevole scoperta. Matt Penman al contrabbasso, beh, un concerto che ha portato grandi emozioni e allo stesso tempo, a proposito di poesia, tante immagini e allo stesso tempo incontro tra ritmica e melodia, quanto mai forbito, e perché no, anche accattivante. Allora, io ho selezionato un po' di brani tratti da una playlist che ho recuperato dai dischi acquistati al Torrione, perché ho fatto spesa, ne ho pochi di dischi, ne ho presi anche al Torrione. Sì, quindi ne ho presi ancora qualche buco nel bagno. Capito? Tra il bidet e la tassa, dice, sì. Metto a posto le piastrelle, e che qualità. Silent Dancer, ascoltato per voi sabato scorso, lo propongo con questo brano. A proposito di divinità, Apollo, il titolo del lavoro che apre la nostra playlist. Poi con Francesco Bettini inizieremo un motivo di approfondimento e un compendio per stagione 2023-2024. Batterista Dejan Terzic, di origine bosniaca, musicista che ammetto non conoscevo, che ha questa apparente modalità di dare un aspetto dritto nella sua interpretazione alla batteria, mentre invece è molto particolare questa sua descrizione che entra e esce dalle strutture musicali da lui riportate. È un musicista che non è un picchiatore, innanzitutto, e questo per me è una nota di merito, anzi tutt'altro, è un tecnico con anche una sorta di fruibilità. Ecco il suono, che resta certamente, ognuno poi ha i suoi gusti, infatti, di ascolto nell'uscita del suono al sax Chris Speed, confermo, a queste sonorità particolari. Ovattate. Ricorda un oboe molte sì. volte anche come suono, e ha portato una musica ad esempio diversa da quella che ho ascoltato per Claudia Quintet, ecco, in altri frangenti. Questo testimonia una grande capacità di interpretazione. Di struttura, ma Speed poi sì. in tantissimi gruppi, gli Ultimate Plus, c'è lui, cioè è presentissimo, è molto richiesto come musicista, anche perché è estremamente colto, intelligente ed utile, anche quindi si adatta bene anche ai vari progetti. Prima sentivo il piano di Bojan, che c'è questo staccato tristaniano che insomma è bravo. È stato un concerto completo. A me mi piace. Sì, così è detto meglio. Portare una stagione, che tra l'altro era la 25esima, ha tenuto a sottolineare Francesco, portare una stagione con le difficoltà che ben conosciamo e anche con la voglia di rinnovarsi, con l'intersezione attraverso altre sedi come quelle che sono di conservatori in tutta Europa nell'ultima serata di domenica, poi aggiungiamo anche con Crossroad Jazz, con il Bologna Jazz Festival, con Seven Virtual Jazz, con un rapporto molto molto adiacente a tutti i musicisti più giovani, al conservatorio, beh, direi la Tower Jazz con anche, Crossing anche, certo, questo è stato un percorso continuo con Jazzer, la fondazione da cui appunto il Jazz Club Estense fa parte, con altre realtà musicali legate al jazz. Di tutto questo abbiamo parlato con Francesco, così prima del concerto di Dejan Terzic, e iniziamo allora la nostra conversazione. A proposito, no, di momenti di leggerezza sì. prima del concerto, eccoli a voi. Bene, per Jazz Live di Radio Città Fujiko tiriamo le somme, come giustamente nell'incontro con Francesco Bettini, termine stagione al Torrione Jazz Club di Ferrara 2023-2024, siamo arrivati all'ultimo sabato, per cui appunto un compendio generale di stagione, Francesco. Bene, è andata bene, abbiamo adesso fatto la 25esima edizione, abbiamo fatto 90 serate, non tutte prodotte da noi, alcune prodotte dai nostri partner, vedi il Collettivo Istantanea, Crossroad, Bologna Jazz Festival e via dicendo, però comunque 90 concerti sul gruppone in 6 mesi e mezzo reali di programmazione sono abbastanza. Diciamo che le somme che devo tirare le devo anche tirare sull'usura del corpo e della mente. Però siamo stati molto contenti, e siccome erano i 25 anni abbiamo anche fatto un programma con tanti musicisti che nel corso del tempo hanno fatto parte insomma della storia del nostro sodalizio, con tante reentrée, è stato un bel modo di rincontrarli, di rivivere assieme l'atmosfera magica che c'è al Torrione. E oggi è l'ultimo sabato, non è l'ultimo concerto è domani. E anche quello ha un significato particolare, perché anche quello va a coronare tutto il percorso di cui il Jazz Club Ferrara, il Torrione, è a supporto, cioè quello formativo del Dipartimento Jazz del Conservatorio, che coabita lo spazio, nel senso che noi facciamo i concerti venerdì, sabato e domenica e nei festivi. E loro ci studiano e ci fanno lezione in tutti gli altri giorni, per cui è un 50-50, anzi lo usano quasi più loro, perché noi la stagione concertistica la chiudiamo il primo di maggio, mentre loro finiscono l'anno accademico a fine giugno, primi di luglio. Perché domani corona il tutto? Perché stanno facendo questa questa meeting in rete di conservatori, di alcuni conservatori europei che si sono consorziati per fare degli scambi. Domani ascolteremo dei combo di quintetti, sestetti, settetti, non di più, però 4-5 formazioni, con quello di Ferrara, quello di Barcellona, quello di Riga, quello di Vraslav, quello di Lisbona e i nostri del conservatorio di Ferrara, non dico ferraresi perché non c'è neanche uno ferrarese, e così. E quindi anche quello, capisci, è il senso, cioè siamo uno spazio che vive e fa vivere i giovani musicisti, grandi tra virgolette star di questo piccolo mondo del jazz, e appassionati ottantenni condividono la sala con dei ragazzi che ce ne hanno 18-19 e poi magari si fermano al bar e commentano quello che hanno ascoltato, ma non solo, adesso non vi dirò cos'altro commentano. Mi rendo conto. Dopo diventa una sorta di comunità, anzi, scusatelo, è come, quindi si fa anche un po' di gossip fuori, no? Voglio complimentarmi per la stupenda colonna sonora che hai messo sotto l'intervista, tra rumori di strade, note di jazz, questo acido metropolitano, bravo. No, ma è la mia vicinanza con Angelica, questo, che tra l'altro, sì, come ben scendo, sai, le contaminazioni, certo, sì. L'intersezione urbana con una sorta di noise e field recording. Senti un po', senti, come parli, come un libro stampato. No, a tale proposito stiamo seguendo la 34esima edizione di Angelica, Valutazione del Vento, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Potete ovviamente avere anticipazioni dei concerti che seguiamo tutti e tutte, perché è una presentazione, una presenza quanto mai potete immaginare da Angelica, eterogenea e variegata, attraverso altri suoni all'interno del Breakfast Club. Ogni tanto c'è qualche intrusione anche in Jazz Live. Beh, questa colonna sonora non è male. Mark Turner insieme a Jason Palmer alla tromba, Joe Martin al basso e Jonathan Pearson alla batteria. Un altro grande concerto che c'è stato, portato una sorta di All-Star Game di concerto. Sì, anche perché qua il disco è bello, ma soprattutto dei temi sono di improvvisazione di Palmer e di Turner, che sono notevolissimi. Sì, sono dominanti, ma anche la ritmica comunque è stata assolutamente all'altezza. Sì. Però mi rendo conto anche di un'altra cosa: non abbiamo mai fatto mistero di problemi, ed è comprensibile anche dal punto di vista economico. Nonostante tutto, ho notato una stagione veramente che definire eccellente è un eufemismo. Cito alcuni nomi: Mark Turner, Miguel Zenon, Michael Formanek, ne potrei dire altri così snocciolando velocemente in intersezione, Greg Osby, esattamente. E qual è la formula per tutto ciò? Ah, adesso la formula si chiama fare 12 miliardi di bandi e provarli a vincere tutti, cioè bisogna trovare i finanziamenti. Quello che ha aiutato molto negli ultimi anni è essere entrati nel Fondo Unico per lo Spettacolo, che è croce delizia, nel senso che dopo devi fare tutto perfettamente regolarissimo dalla A alla Z, con costi accessori piuttosto significativi, ma dall'altra parte rimane un po', rimangono sicuramente un minimo di risorse per poter poi come dire, avere delle coperture, perché con la biglietteria, anche con l'attività di wine bar, non riusciamo a coprire il matto, come si dice. Quindi un contributo del ministero, un contributo della regione Emilia Romagna, adesso vediamo perché è cambiato il bando e ci diranno i risultati. quello dell'amministrazione comunale, sponsor quindi anche l'Ombra, perché è un circolo, è un posto piccolino. Però insomma tutte queste cose, unitamente al fatto che il luogo è comunque frequentato e quindi l'autofinanziamento ha il suo peso, fanno sì che ci stiamo dentro. Ci stiamo dentro, ma ricordiamoci, uno che è un non profit, e vabbè, ma anche nel non profit puoi fare profitto se paghi la gente che ci lavora. Nel nostro caso non è che non li paghiamo, è che prendiamo tutti pochissimo, lo facciamo perché ci piace. Poi questa cosa qui, per taluni, me in particolare, ha delle ricadute lavorative in altri contesti. Però tanti sono anche giovani musicisti che vengono a darci una mano, addirittura sono proprio volontari, insomma. Ci sono diversi movimenti nella storia della musica, nella storia del jazz, e io ho questa immagine che, non so, tra 50, 60, 70 anni, magari, ci auguriamo ovviamente, ma si parlerà di un movimento ferrarese che ha portato avanti il Torrione, Francesco? Ma credo proprio di sì, perché, attenzione, stiamo parlando di nicchie culturali, quindi all'interno di quella nicchia culturale sicuramente sì. Perché si è sviluppata una comunità di musicisti che addirittura si sono trasferiti qui in ragione di ciò che avviene dal punto di vista della programmazione, della formazione, via dicendo. Ma anche nella storia di tanti musicisti che magari inizialmente erano delle promesse, che poi sono diventati quelli invece fondativi della prosecuzione del linguaggio di questa musica, tanti sono passati e ripetutamente. E adorano questo posto, e quando hanno un day off a Ferrara hanno imparato a conoscere anche la città. Però è ovvio, stiamo parlando di una nicchia culturale. sicuro di non avervi fatto un dispetto, lasciato scorrere un po' le sonorità portate da Miguel Zenon in un altro grande concerto che c'è stato al Torrione. Perdonate questi superlativi, meritati. Da solo incredibile. No, posso dire due cose sulle nicchie culturali cui faceva riferimento, certo, Francesco? È vero che le nicchie culturali sono di pochi, quei pochi beati loro che si godono le bellezze di queste espressioni artistiche in generale nelle arti, ma è anche vero che la nicchia culturale poi è quella che illumina indirettamente anche il resto, anche se il resto molto spesso non lo riconosce, non lo ammetterà mai di essere in parte illuminato e mosso. Il problema delle nicchie culturali che semmai vengono a mancare è loro, e poi buio per tutti. Sì, io paragono sempre queste cose, guardo un po' il termosifone che finché funziona nessuno se ne accorge, quando smette fa freddo. Come mai? E magari uno che non sa perché fa freddo imprica contro la luna. Esatto, poi se la prende con... Sì, col primo immigrato che passa. Musica de las Americas, questo lavoro dove troviamo un grande Luis Perdomo al pianoforte. Andiamo verso la conclusione col brano che dà apertura, Tainos and Caribes, Miguel Zenon. Oh, abbiamo portato tre tenori, Chris Speed, Mark Turner e Miguel Zenon. Uno diversissimo dall'altro. Esatto. Un po' di musica, pubblicità, poi si ritorna con la seconda parte di questo Jazz Live speciale 2023-2024 Jazz Club Ferrara. A tra poco. Nuovamente in diretta 12.03 minuti per questa vigilia di weekend di compendio tra Jazz Live e Jazz Club Ferrara stagione 2023-2024. Stiamo ascoltando Mark Copland, un concerto che mi ha sorpreso. Lui non è più uno juniores, ma ha saputo strutturare sonorità assolutamente legate al modern jazz. Qui stiamo ascoltando un'interpretazione, ho scelto questa nella playlist odierna, ma in altri brani brani dal disco che ho preso, il progetto Someday, vi sono anche realtà e sensazioni che danno quell'oltre, senza nulla togliere a questa interpretazione, che se non vado errato è di un brano di Thelonious Monk dal titolo Let's Cool One, Mark Copland. Quartetto, si sono presentati con Drew Grass al contrabbasso, Mark Ferrer alla batteria e Robert Verheyener al sax soprano, come state ascoltando, ma anche al tenore. Progetto Someday. Questo è già più un'interpretazione, già più sì, perché lavoro, è un senza nulla togliere. No, no, ma è riletto tramite il filtro di Steve Lacy. Sì, cioè questa eleganza lesiana che si sente molto. Ti faccio un piccolo spot per Pronobis. Perché spot Pronobis? Sì, domani a Salpinoz. Sì? Tre dischi. Il primo è Charles Lloyd. Ah, ok. Con una formazione importante. Mi perché... saprei, l'hai già sentito? Sì. Ok, com'è? Perché è un Charles Lloyd sorprendente, a me piace molto più questo disco che non quello che abbiamo sentito al Teatro Comunale di Bologna, no, al Festival di Bologna, ed è un Charles Lloyd che ha una sonorità quasi da Lycaonis, e poi c'è Ian Blade. Ah, ok, alla batteria. Ian Blade alla batteria e il Grenadier al basso, ma Blade alla batteria fa i numeri. Poi c'è Bill Frisell. Sì. Con due grandi orchestre, l'ho sentito qualche anno fa all'Aquila, l'orchestrazione è Michael Gibbs, ed è molto interessante perché di solito Frisell sentiamo piccoli combo, invece qui grande orchestrazione. Chiudiamo con un altro chitarrista che è molto friselliano, Julian Lage. Ah, sì. E quindi è un bel spot Pronobis. Domani alle 11 sì, spot Pronobis. E noi procediamo invece con un ricordo a proposito di questo aspetto della storicità e dello sguardo in proiezione in avanti, un ricordo di conversazione che ha portato Francesco attraverso il dialogo con un suo amico. La chiudo così, un amico mio fotografo a cui del jazz ne può fregare di meno, era a New York in metropolitana. E si è messo a fare due chiacchiere con un signore lì di fianco che non era neanche un musicista, era un appassionato di jazz. Quando gli ha detto che era di Ferrara, fa: ah, ma lì avete uno dei jazz più paesi del mondo, per dire. Questo è una chiusura veramente attinente alle emozioni che il Jazz Club di Ferrara, il Torrione, ci regala. È inutile parlare di progetti futuri, perché adesso è il momento anche, capisco la lacrimuccia come ultimo sabato e ultimo weekend, però il riposo fa parte del lavoro. Sì, no, siamo arrivati. Cioè, anche perché poi la struttura ha bisogno sempre di essere costantemente manutenuta, per cui un po' il Torrione si sta autodistruggendo, un po' io e i miei colleghi cominciamo, come dire, a vedere le stelline, capito? Siamo proprio come dei pugili suonati al decimo round. Ma la vogliamo portare a casa, la vogliamo vincere ai punti, non gettiamo la spugna, ma c'è proprio quel pensiero, quel retropensiero che dice ma quasi quasi la gettiamo, quasi quasi la gettiamo. E siamo veramente cotti. E adesso che chiudiamo domenica, che è il 5, fondamentalmente non proprio dal 6, ma dal 10 maggio al 10 giugno ho una finestra che più o meno tutti gli anni è quella. Allora mi prendo su e sono proprio 25 anni quando c'è il Torrione, che mi faccio un mese di cicloturismo in giro per prevalentemente il bacino mediterraneo. Ti aspettiamo in Polesine? Ah, lì ci verrò più avanti, perché ho già preso il biglietto, farò la Trans-Andalus, che sono 2100 km tracciati dagli istruttori di mountain bike andalusi, tutto in off-road, e che fa il circuito, proprio il cerchio di tutte le province dell'Andalusia, continuativo, un bellissimo tracciato, non ho studiato ancora una benemerita ceppa, quando bello arrivo, così. Quando si arriva parte, okay. Tenda, sacapelo, fornellino, quindi posso dormire in qualunque momento io decidessi ok, questo è il punto d'arrivo. Questo serve moltissimo a pulire il banco, come dicono gli stessi, no? Cleaning the desk. Amadea mi dà una sorta di citazione a Salpinaz. Questo. Sì. Lui è Michael Formanek, l'abbiamo visto assieme in questo concerto. Lui molto potente, lui sì. molto forte, presente, ha portato al Torrione, bello, un gran bel concerto. Alle spalle c'è anche esibizioni con Tim Berne, insomma ha una carriera con le grandi radici Formanek. Zadik, l'etichetta di John Zorn. Sì, ha lavorato anche per la Zadik. Qui lo troviamo in un lavoro da solista con Chess Smith, a certo, proposito, un batterista che ha la faccia da ragazzino ma ha l'esperienza di un veterano. Fai le presentazioni prima dei concerti e dai uno sguardo al pubblico, cosa vedi? Vedo poco perché la luce sul ti palco riflette, sì. La luce sul palco mina. No, vedo tantissimi, vabbè, le prime file le vedo benissimo, che sono gli amici, gli appassionati, i giornalisti a noi affezionati, come te, caro Will. E poi vedo soprattutto dietro un sacco, spesso un sacco di giovani e molti giovani musicisti, quindi cosa vuoi che veda? Vedo una comunità di fatto eterogenea, anche politicamente, devo dire, cioè non è un luogo di sinistra, di sicuro non è di destra, però c'è di tutto. Potrei, anzi la prima fila, potrei dire tre Fratelli d'Italia, due Leghe, e poi comincia il PD dietro e dopo si va fino a Democrazia Proletaria là in fondo. A Fujiko. Esatto, alleluia. Questa sera non chiudiamo certamente in maniera immediata, anzi, tra l'altro c'è Chris Speed, che è un musicista molto particolare. È uno di quei fratelli che, anzi, era contentissimo quando ci siamo visti oggi pomeriggio e ha detto: ah, ma quest'anno due volte. E dico: ma Chris, fossero anche 100, sarei felicissimo. E Matt Penman 3, quindi ormai di casa. Neozelandese. Neozelandese, ma sta a New York dalla vita e poi è molto richiesto, per lui lavora tanto. No, bellissimo concerto. Ma guarda, devo essere sincero, noi avremmo chiuso il 30 aprile, poi avevamo in residenza questi 27 musicisti europei, giovani musicisti europei, che avrebbero dovuto comunque lavorare all'interno del Torrione come workshop e poi restituire un saggio finale che è quello di domani. Allora mi sono detto: ma dai, che cazzo facciamo? Aggiungiamo, vediamo chi c'è in giro. E poi c'era in giro un'occasione del quartetto di Michele Polga con una bellissima sì. ritmica. Questa occasione qui, che avevano appena inciso un disco per Cam Jazz, erano qui, ho detto: venite giù e facciamo un gig e magari speriamo che vengano questi ragazzi, perché ieri ce n'erano tanti. Oggi non lo so perché devono pagare ben 10 euro. Ho capito. Io ti auguro una buona estate. Grazie per tutto quello che hai fatto come lavoro e anche come emozioni che hai donato alle appassionate e agli appassionati di jazz. È stata una stagione sia emotivamente che concretamente unica e speciale. Beh, ovviamente non ci fermiamo qui. Ti ringrazio per questa conversazione e ti auguro il meglio. Grazie Francesco. Grazie Willy, grazie a tutti i radioascoltatori. E spero che ormai sapete tutto del Jazz Club, se incappate nella frequenza di Radio Città Fujiko se ne è parlato tanto, ma parlarne è un conto, viverlo in prima persona è un altro, per cui perché non venite a fare un salto? Dovremmo riaprire, non mi ricordo se è il 3 o il 4 d'ottobre, con il quartetto di Manuel Wilkins. Oila, ecco, così per dire. Grazie Francesco. Grazie a te Aldo. Per me è stata la sorpresa della stagione. Non conoscevo questo pianista, l'ho ascoltato, sentito attentamente per ben due. Alexander Hawkins. È vero, sì. Ragazzi, io lo conoscevo. Bello strano, eh. Io ho sentito un paio di dischi, mi era piaciuto, ma dal vivo capisce la pienezza del musicista. E oltretutto e la versatilità e la fisicità. Sì, anche un musicista che ha una relazione con lo strumento veramente molto intensa. Abbia sentito un pezzo splendido, così sospeso, queste granelle di blu. Ho scelto questo perché è quello che secondo me, se è possibile, ne dà l'identikit, ecco, per così dire, più azzeccato. Qui l'abbiamo ascoltato in trio, è stato al Torrione in trio, con Neil Charles al contrabbasso e Steven Davis alle percussioni e alla batteria. Ho 25 anni di Torrione, ma anche noi qualche annetto che siamo media partner del Torrione. Ne siamo anche orgogliosi. Meniamo vanto. Dai, sì. Con Roberto Ottaviano, Eternal Love, il disco People, abbiamo ascoltato anche in questo frangente Alexander Hawkins, per citare anche un panorama dove è stata molto presente anche il jazz dalle nostre parti. Ecco allora, Bettini va in vacanza, gli auguriamo un'ottima ciclata, noi invece no. Noi perché ancora, però ci porti al mare. Mi porta al mare perché dopo aver sentito un art director come Bettini, sentiamo un altro art director, quello di Fano by Jazz, cioè quindi mare e jazz nella riviera marchigiana. Sì. E la prossima settimana, che forse sarà anche l'ultima nostra trasmissione di Jazz Live, sentiamo anticipazioni di questi festival estivi, anche perché nessuno si fa dei calcoli, dove vado quest'estate. Beh, potrebbe essere anche per combinare vacanza, un po' di mare, buon pesce, jazz, è un ambiente ottimo. È un bel suggerimento. La settimana prossima questo. We'll be right back. ovviamente continueremo a stare in contatto con Francesco anche per seguirlo. Lo stressiamo anche durante le vacanze andaluse. No, a parte gli scherzi, dopo i complimenti, di certo aspettiamo per i progetti successivi del Jazz Club, che saranno anche in estate, come ben sapete, arrivano così come per magia alcuni appuntamenti. L'appuntamento che chiude il Paradiso Jazz Festival edizione 2024 è con Bill Evans and the Vance Band All Star. Lo diciamo subito che non c'entra nulla con l'altro Bill Evans. No, non è il pianista che è morto, ahimè, da un pezzo. No, no. Questo è un ottimo sassofonista. C'è un gran timbro. Che fa il grifress, questo ambiente, sì, tra il funk, il canjan, il jazz, sì. È molto caratteristico, molto ballabile, molto anche, è uno spettacolo. Sì, che è una, quindi una serata intensa di divertimento assicurata. E oltre di enogastronomia interessante al Paradiso Jazz. Lunedì 13 maggio sarà alle 21.30 per il Paradiso Jazz e la conclusione di questa edizione. Vi lascio appunto con questo brano, così per dare una varietà alla playlist odierna, vigilia di weekend, mese di maggio, primavera, facciamo gli scongiuri per goderci qualche giorno di sole. Alfredo ha già preparato Salpinaz, quindi è tutto pronto. È tutto pronto. Non rimane altro che dire buon ascolto per Radio Popolare e il suo GR, e noi vi salutiamo da venerdì prossimo. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon weekend e buon jazz. We'll be right back.